Pronto Antonio? Ciao, sono Antonio. Ciao Antonio, come stai? Molto bene, molto bene. Benissimo, ti sento bello. Perché non siamo dalla provincia di Livorno, ma da Livorno. Ah, da Livorno proprio, perché tu proprio sei, da Livorno. Sei livornese. Non sono livornese, ma sono un amante di questa città. Amo, l'adoro. E che ci fai a Livorno esattamente, Antonio? Io lavoro in accademia. In Accademia Navale? Sì, in Accademia Navale. E fai il cuoco? No, non faccio il cuoco. Però vedi, quella descrizione che hai fatto all'inizio, sì, quando hai detto che c'è chi cucina per raccontare e c'è chi cucina per mangiare, sì, io appartengo alla prima categoria, quello che cucina per raccontare. Dimmi cosa racconti con un piatto, Antonio. In realtà, io cucino malissimo, però racconto tanto. Ma dimmi, quindi, Antonio, fermati un secondo. Antonio, fermati un secondo. Dimmi una cosa che cucini in particolare. Allora, una cosa che mi rappresenta, perché certo, l'ho assaggiato quando sono stato in Sud America, sì, è un simil rospo andino. Il rospo nelle Ande è una specie di pollo, ovviamente da noi non c'è. Ma come li cucini il rospo, Antonio? Allora, lo prendo e lo riempio. Ora tu immagina, l'originale sarebbe questo enorme pollo, no? Sì. E viene riempito di carne macinata. Ora noi prendiamo tanti piccoli rospini, sì, e li riempiamo con carne macinata, sì, e con pinoli e uva passa, e si mette nel forno. Nel forno, ok. Poi viene ricoperto con molto burro, perché deve formare una specie di crosta. Antonio, sai che a sentirlo così fa veramente schifo questa ricetta? Io spero che sia buonissima, però è buona. Lo so. Ma guarda, i miei amici mi devono sopportare perché io devo raccontare. No, lo immagino. Antonio, scusami, io purtroppo non ho tanto tempo. Dimmi due cose che sono curioso. La prima è se questa cosa l'hai fatta anche in Italia. Cioè, trovi i rospi in Italia. Certo, in Italia. No, la faccio in Italia, solo che sono piccoli rospi. E come si chiama sta ricetta? Non lo so, io la chiamo rospo andino. Ok. Però la seconda cosa invece non c'entra con questo è: che lavoro fai all'Accademia Navale? Io faccio il tecnico di radiologia. Ma non ho capito, fai il tecnico di, scusami? Radiologia. Radiologia. Sì, perché noi in Accademia abbiamo un ospedale, un piccolo centro. Ah, ok, il radiologo. Però che è proprio un ospedale. Perfetto, e ogni tanto ti infili nella mensa dell'Accademia, sti poveracci, gli rifili il rospo andino. No, lo faccio noi, ma agli amici. Antonio, grazie mille, buona giornata. Ma figurati. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie.